Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Ci siamo, mio caro Francesco Tromba, comunicatore multimediale della nuova generazione, presente ancora una volta nel Groovemaster Studio per il soundcheck di Radio 24. Buona domenica a tutti voi da Gegè Telesforo e buona domenica a Francesco Tromba. Buon pomeriggio a tutti. Ti piace comunicatore multimediale della nuova generazione? A che punto sei? 2.0? Ma siamo pure al 3.0. Addirittura, ormai, sì. Hai scavallato, Tromba, eh? Eh sì, ci siamo evoluti. Bene, buongiorno a tutti, buona domenica, lo ripeto. Siamo particolarmente felici oggi di presentarvi una puntata che ci porterà nel futuro, ci proiettiamo nei prossimi anni per quel che riguarda il suono che proporremo oggi agli appassionati di musica del nostro soundcheck. Sì, ci sono molte sonorità futuristiche in questo momento in giro, soprattutto per l'Europa, Londra e quei dintorni lì. Ecco, potremmo avere qualche difficoltà oggi, perché per il pubblico radiofonico abituato ad ascoltare sulle altre emittenti sempre le stesse cose, approcciarsi improvvisamente con cose nuove può essere un po' ostico. Eh sì, può succedere che magari chi non è abituato a... chi non è magari anche abbastanza curioso da cercare nuove sonorità può trovarsi inizialmente spiazzato. Ecco, hai detto la cosa giusta, bisogna essere curiosi. La curiosità è alla base proprio della creatività e anche dell'evoluzione della specie. Eh sì, è l'elemento principale per rimanere sempre aggiornati. E infatti noi questo lavoro lo possiamo fare proprio perché siamo curiosi musicalmente e andiamo quindi a procacciarci novità, nuovi artisti, suoni nuovi che oggi saranno protagonisti del nostro soundcheck, perlomeno in questa prima parte, perché poi nella seconda parte, quella più jazz, quella che inizierà alle 19:15, renderemo il nostro doveroso tributo a un eroe del jazz scomparso qualche settimana fa. Il 28 di febbraio c'è stato il funerale per la perdita di Clark Terry, trombettista scomparso a 94 anni dopo lunghi anni di malattia per una forma di diabete abbastanza grave. Ma comunque parleremo della sua arte, della sua tromba, del suo filicorno, della sua passione per la musica e della gioia di questo grande personaggio, gioia che ha regalato a tutti i grandi appassionati di jazz. Ma questo nella seconda parte. Veniamo a noi, veniamo a questa prima parte dedicata quindi a New Sounds. Sì, nuovi suoni che adesso, anche grazie alle nuove tecnologie, sono molto più semplici da trovare rispetto a quello che poteva accadere una volta. E anche ieri noi abbiamo intervistato i componenti di questa band inglese favolosa, si chiamano Native Dancer. Vi consigliamo di rintracciare subito questa nuova pubblicazione, un EP, e anche oggi iniziamo proprio con un artista inglese della nuova generazione, con un album in uscita molto atteso non solo dagli appassionati di musica ma anche e soprattutto dai musicisti e dagli artisti. Sì, ho letto su internet che una delle sue più grandi fan, Lauren Bula, o anche India Airy e Joe Stone, si sono espresse in maniera molto positiva su di lui. Sì, questo signore si chiama Qobs, scritto K-W-A-B-S, la pronuncia esatta dovrebbe essere Qobs, un cantante favoloso che ha fatto varie esperienze. Addirittura è stato la voce solista di un'orchestra jazz molto importante a Londra, dove si sono formati proprio i giovani talenti. Sì, la National Youth Jazz Orchestra. Jazz Orchestra. E questo signore, il signor Qobs, sta per pubblicare il nuovo album intitolato Love War, e il brano che noi vi vogliamo far ascoltare è spettacolare, una voce infinita. La prima volta che l'ho sentito qualche giorno fa, caro Francesco, mi sono venuti i brividi. Sì, praticamente ha una voce che sembra quasi un coro, non lo so, è potentissima, ti riempie, ti arriva diretta sì, al sì, cuore. È piena di armoniche, un timbro vellutato bellissimo e poi con una bellissima dinamica anche. Allora, ascoltiamo Qobs per dare il via a questa puntata dedicata ai New Sounds, quindi bisogna respirare, fare un po' di zen e preparare le orecchie all'ascolto di novità. Quest'oggi qui al soundcheck di Radio 24, Perfect Ruin, Quabs. Sì, un grande artista, una bellissima voce, quella di Quabs con Perfect Ruin qui al soundcheck di Radio 24, artista inglese, classe 1990, ma ce ne farà ascoltare delle belle con la pubblicazione di Love War, nuovo album che uscirà fra quanto? A maggio. Non vedo l'ora di averlo fra le mani. Tra l'altro ho letto, ho ascoltato in realtà una sua intervista in cui lui diceva che il suo idolo in assoluto è Donny Hathaway. Capirai, ma chi non è appassionato di Donny Hathaway? Quando conosci Donny Hathaway capisci che tutto quello che c'è stato dopo di lui era, come dire, non una copia, una brutta copia, ma insomma ha segnato un periodo nella vocalità e nel modo anche di realizzare musica per quel che riguarda il soul e l'R&B. E allora, dalla voce di Quabs passiamo a quella di un altro signore molto interessante, anche un bel personaggio, Josiah Wise, che con questo nome mi pare abbia a che fare comunque con la scuola del gospel. Sì, lui dice di essere in un certo senso il figlio minore di Kirk Franklin e Bjork messi insieme. Addirittura? Sì, sì. Anche se poi il brano che noi presentiamo, tratto da un album realizzato un paio di anni fa intitolato Parabola, il brano si intitola Staring Into the Sun, ha alcune influenze afro. Sì, perché comunque lui ha origini afroamericane, quindi cerca di unire appunto il beat africano magari. E quindi mette insieme le sue origini e la passione per il gospel, per Kirk Franklin, per Bjork e tutto il resto. Ecco qui il suono che ha tirato fuori Josiah Wise per la prima volta al soundcheck di Radio 24. Staring into the sun, I see the greatest revenge is none. No need to bridle my tongue. My heart and mind are finally one. No festering sores now. Love you even more now. I'm sorry, but I gotta go. Soundcheck, il suono della musica. Bella passione per il soul jazz fine anni 50, primi anni 60, quindi stiamo parlando più o meno delle pubblicazioni di quel periodo della Blue Note. Arrivano qui al soundcheck giovanissimi i Coleman Brothers, ovvero Matt Coleman al trombone, Andrew Coleman alla tromba. Ogni tanto ci sono le incursioni anche della vocalist Sarah Coleman, che dovrebbe essere la sorella. Sì, è la sorella, è un'azienda a conduzione familiare. Una band a conduzione familiare. E allora i Coleman Brothers, protagonisti del nostro soundcheck, con questo brano intitolato Mr. DG, anche questa una giovane realtà inglese. Sì, anche loro sono di base a Londra e anche loro siamo riusciti a trovarli grazie a Bandcamp. Eh sì, stiamo parlando molto spesso di Bandcamp e SoundCloud, ma ne abbiamo parlato anche ieri proprio con i Native Dancer, che hanno messo in bella mostra il loro formidabile suono, che noi abbiamo rintracciato ormai da qualche settimana, e fra pochissimo verrà pubblicato pubblicato il nuovo disco, ma ne abbiamo parlato anche con Luigi Calivà, esperto di marketing musicale, che proprio consigliava ai giovani artisti di utilizzare le nuove tecnologie per proporre la loro musica al di là poi di eventuali importanti contratti discografici classici. Sì, anche perché ormai non basta essere bravi dal punto di vista musicale, cioè fare scuole di musica ed essere dei perfetti musicisti, ma bisogna anche fare magari un master in informatica e comunicazione. Per capire come promuovere la propria arte, il proprio talento e la propria immagine. Allora, mio caro Francesco, andiamo avanti. Oggi una puntata dedicata a New Sounds, le nuove scoperte che abbiamo fatto nell'arco delle ultime settimane. Continueremo così a suonare liberamente la musica che ci piace, quella di ieri e quella di oggi, cercando di non imitare nessuno ma di mantenere la nostra bella personalità. Eh sì, perché in un certo senso la musica che troverete sempre qui su Soundcheck è lo specchio, diciamo, di quello che siamo noi. Siamo degli artigiani. Eh sì, degli artigiani della musica. Puntiamo sempre alla qualità. Naturalmente quando non avremo più questa condizione, ovvero di poter lavorare liberamente, di poter fare le nostre scelte senza imposizioni, credo che sarà difficile poter continuare a operare in questo modo. Eh sì, non avrebbe senso, è come se tu facessi un lavoro che non ti rispecchia, quindi non ti soddisfa, no? Eh certo. Bene, allora mio caro Francesco Tromba, andiamo avanti con un'altra realtà. Questa volta ci spostiamo dall'Inghilterra agli Stati Uniti, West Coast. Andiamo dove? A Oakland, California. Dove esatto. Troviamo? I Bells Atlas. Bells Atlas, di cosa stiamo parlando? È una band che in realtà ha delle esperienze molto diverse, cioè i componenti hanno suonato anche in diverse altre band locali. Ho scoperto anche che hanno fatto l'apertura dei concerti degli Hiatus Coyote quando sono andati a suonare in California. Infatti in un certo senso sono comunque lontani parenti della band australiana. Allora, io vado così a presentarvi anche i nomi dei componenti di questa band, perché non si sa mai, magari l'anno prossimo vincono il Grammy Award e noi almeno conosciamo anche i nomi di questi ragazzi: Derek Barber alla chitarra, Geneva Harrison alla batteria, percussioni e tastiere, Sandra Lawson Ndu, voce, percussioni e tastiere, Duke Stewart al basso elettrico, voce e tastiere. Eccoli qui, si chiamano Bells Atlas con Dit Dit al soundcheck. It until it has no form. You were born in this, and I was told to recommend you stop before you place your time capsules. Stop before you etch in cornerstones. You were born in this. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Red rose petals falling slowly through the sunny air. Orange cloud. Questa non è proprio una novità per gli appassionati di Radio 24 e neanche per noi, però un incontro al vertice fra due bellissime ragazze con grande personalità. Janelle Monáe incontra Esperanza Spalding in questo brano intitolato Dorothy Dandridge Eyes, gli occhi di Dorothy Dandridge, tratto da un album di un paio di anni fa intitolato The Electric Lady. Janelle Monáe è un bel personaggio, anche una bella testa. O sì. Fuori di testa? Non tanto, secondo me lei ce l'ha bella sulle spalle la testa. Si è inventato una serie di cose comunque molto che hanno una grande presa anche dal punto di vista del marketing. Lei ha puntato molto sia sullo storytelling, cioè ogni suo album è una sorta di concept album in cui lei racconta appunto la storia. Ha creato questo alter ego che viene dal futuro, dal 2700. Un avatar. Sì, che si chiama Cindy May Water. Mayweather, scusa, ed è appassionata anche di Metropolis. Tutto parte in realtà da, viene ispirato da Metropolis, il film degli anni 20. Sì, sì, sì, sì. Ed è una sorta di miscuglio di suoni del futuro, del passato, anche del passato, presente. Sì, perché poi il disco Electric Lady ha molto del sole dell'R&B fine anni 70, primi anni 80. Sì, ci sono anche collaborazioni importanti come Jill Scott, Prince. Certo. Allora, da Janelle Monáe, qui in questa puntata intitolata New Sounds, passiamo invece a un'altra voce, un'altra artista molto interessante che noi teniamo d'occhio da un po' di tempo, anche perché i video che vengono realizzati sui brani scritti e interpretati da questa ragazza che si chiama Twigs ricevono milioni di visualizzazioni. Diciamo, siamo quasi al top di gamma, anche perché, diciamolo pure, i video di Twigs sono dei capolavori di arte contemporanea. Sì, infatti molti appassionati in realtà di moda dal punto di vista proprio visuale sono appassionati di conseguenza di Twigs. Sono dei video veramente dal punto di vista visuale pazzeschi. Ecco, e la signorina Twigs, che ha anche un bel viso interessante, delle movenze accattivanti, oltre a una voce molto interessante, deve però firmare da un po' di tempo a questa parte le sue pubblicazioni con FKA Twigs, ovvero formerly known as Twigs, perché ha avuto dei problemi proprio col nome. Sì, perché c'era già un'altra band che si chiamava Twigs, quindi è stata citata. Sì, è stata citata, e allora ha escogitato questa via con l'FKA prima di Twigs. Bene, allora ascoltiamo FKA Twigs, il brano, io lo trovo interessantissimo, Pendulum, e noterete all'interno della struttura che c'è un suono come se ci fosse un musicista che batte con un martello, ma senza un'idea ritmica vera e propria. È quasi una cosa intermittenza, quasi a dare fastidio, che però dà un senso e un suono a questa composizione, lo ripeto, intitolata Pendulum. Sì, è proprio un disturbo di sottofondo. Un disturbo, ma che fa il suono. Sì. Pensa a te. Allora, Twigs al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Suoni nuovi e nuovi artisti al soundcheck di Radio 24 di questa domenica, sempre col nostro Francesco Tromba, che è collegato via internet con il mondo da comunicatore multimediale 2.0 della nuova generazione. Hai detto anche 3.0, si è arrivato. Sì, ormai si è arrivati al livello successivo. Al livello successivo, allo step successivo. Bene, oggi una puntata molto interessante, stiamo ricevendo molte email all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. Pian piano riusciremo a rispondere a tutti, a dare informazioni anche sull'Airplay, e ricordo che nelle pagine del sito groovemasteredition.it dovreste trovare le scalette, ma anche tu le pubblichi, no? Sì, le pubblico anche io su Facebook e su Twitter, sulla pagina del programma. Bene, oggi quindi una puntata dedicata alle nuove sonorità, nuovi artisti, e fra questi vogliamo presentarvi un altro personaggio, anche questo è un bel personaggio, si chiama José González, non è né messicano né portoricano. Di dov'è José González? È uno svedese argentino. Porca miseria. José González, anche lui chitarrista, compositore, cantante. Ecco, qui ci spostiamo proprio su un altro versante sonoro. Facciamo quasi un salto nel passato, anche se lui è un artista giovanissimo perché è nato nel 1978. E un po', quando l'ho ascoltato la prima volta, in qualche modo sono andato indietro nel tempo, alle canzoni, al suono di Simon e Garfunkel, di Joan Bez, quindi c'è qualcosa di folk, country, naturalmente contemporaneo. Sì, c'è anche qualcosa di molto melanconico in un certo senso. Molto, io direi, lo definirei un Nick Drake che suona una chitarra classica Alhambra tipica dell'Argentina. È vero, anche un po' Beck in versione acustica. Esatto, è un po' quelle sonorità. Allora, che cosa ha fatto questo signore? Ha pubblicato un disco nuovo, si chiama Vestiges and Close, giusto? Esatto, è uscito da un mesetto circa. Allora, il brano che abbiamo scelto, Leaf of the Cave, per presentarvi per la prima volta al soundcheck cos'è Gonzales. A te piace? Sì, secondo me è molto bravo. Tra l'altro questo disco è stato pubblicato dopo diversi anni in cui lui in realtà si è concentrato più su altre sonorità un po' più rock insieme alla band Junip. E allora lo ascoltiamo subito, cos'è Gonzales? Gonzales, svedese, sì, è nato in Svezia, origini argentine perché i genitori si spostarono in Svezia 2 anni prima della sua nascita. Lui è nato nel 78, nel 76, durante il periodo del golpe in Argentina, i genitori hanno deciso di lasciare tutto, chiudere 2 valigie e scappare in Svezia. E lì hanno sfornato 2 anni dopo il talento di José Gonzales, che vi abbiamo presentato qui al soundcheck con un suono molto originale, contemporaneo e antico al tempo stesso. E andiamo avanti, mio caro Francesco, abbiamo ancora una manciata di minuti a nostra disposizione per chiudere la prima parte del soundcheck. Poi, lo ripeto, torneremo alle 19:15 con una puntata dedicata a Clark Terry, doveroso tributo del soundcheck a un eroe del jazz scomparso recentemente. Ma chiudiamo con un altro artista nuovissimo, anzi una band chiamata Thomas, ma che ha un artefice, la testa di questo compositore musicista chiamato Tom Gill. Da dove arriva Tom Gill? Da Toronto, Canada. Ecco, quindi ci spostiamo in Canada. Abbiamo fatto un po' il giro del mondo oggi. Eh sì, un po' di sonorità diverse da varie parti del mondo. Lo vogliamo dire, non abbiamo tante informazioni su questa band chiamata Thomas, il brano si intitola Janela, però è una delle cose più belle di questa puntata. Sì, posso dirlo? Il sound ti rapisce subito. Molto affascinante, batteria elettronica minimal, e poi la cosa bella è proprio il suono delle due voci, la voce maschile e quella femminile, in unisono, che camminano insieme senza problemi, con un suono tipicamente smooth. Sì, si intrecciano in una maniera incredibile. Allora, chiudiamo la prima parte con Thomas, il brano si intitola Janela, e vi diamo appuntamento alle 19:15 sempre con il soundcheck. A dopo. A dopo. More than a friend, best friend isn't worth more than a friend. Check 1 2 mic, check 1 2 mic, microphone check, check 1 2 sound check, il suono della musica di JJ Telesforo. Seconda parte del soundcheck di Radio 24 con Gigi Telesforo e Francesco Tromba qui dal Groovemaster Studio. Seconda parte che, come annunciato, dedichiamo alla figura leggendaria di un eroe del jazz, ovvero il trombettista Clark Terry, scomparso all'età di 94 anni il 21 febbraio di quest'anno, quindi qualche settimana fa. E il 28 di febbraio è stato celebrato il funerale nella famosissima chiesa Abyssinian, quella battista, quella di Harlem, funerale generale che poi si è trasformato, come sempre succede quando si tratta di grandi artisti e di grandi musicisti, in una vera e propria festa. Sì, i grandi artisti che erano presenti hanno ricordato e omaggiato la memoria di Clark Terry, che era anche uno dei musicisti in assoluto più benvoluti forse nella storia di tutto il jazz, perché anche il suo impegno come formatore, come educatore è stato importante. Sì, importantissimo. Beh, immaginiamo soltanto che Clark Terry è stato l'insegnante di musica di Miles Davis e di Quincy Jones, e ha continuato a fare musica, non posso dire fino agli ultimi giorni di vita, ma fino agli ultimi anni, perché poi è stato costretto a ricoverarsi definitivamente. E c'è anche una cosa bellissima, un gesto spettacolare fatto da Wynton Marsalis proprio nel giorno del compleanno di Clark Terry, perché il 14 dicembre, qualche mese fa, in una pausa, in un day off della tournée con la sua big band, ha pensato bene di mettersi d'accordo con la direzione dell'ospedale dove era ricoverato Clark Terry e di fargli una bellissima sorpresa. Si sono fatti dare una bellissima sala dove hanno montato tutto il backline della big band, quindi sono saliti tutti i musicisti con gli strumenti, batteria, contrabbasso e via dicendo, e a un certo punto è entrato Clark Terry proprio portato lì con il letto, pensava di andarsi a fare delle radiografie e invece si è ritrovato con una bella torta di fronte e con una big band spettacolare che ha suonato i grandi classici delle big band di Count Basie e Duke Ellington, big band nelle quali Clark Terry ha militato da protagonista. Un grandissimo gesto. Troverete anche nel blog di Wynton Marsalis tutta la documentazione fotografica e il racconto di questa giornata meravigliosa per celebrare Clark Terry, cosa che facciamo anche noi oggi, proponendovi subito da un album a suo nome splendido del 1978 intitolato Clark After Dark, questa proprio una sua composizione intitolata Clark After Dark, qui al Soundcheck di Radio 24. Eh sì, stiamo celebrando la figura di Clark Terry, trombettista che ha fatto la storia del jazz nel vero senso della parola, oltre 900 registrazioni, 300 a suo nome, sia come leader che come sideman, ha composto più di 200 brani, si è esibito davanti a ben 7 presidenti degli Stati Uniti e naturalmente un numero impressionante di collaborazioni, ha suonato praticamente con tutti, Francesco. Sì, giusto per fare un po' di nomi. Facciamoli tutti allora, sì. No? Duke Ellington, Count Basie, Quincy Jones, Ella Fitzgerald, Oscar Peterson, Dizzy Gillespie, Dinah Washington, Ben Webster, Charlie Barnett, Ray Charles, Billy Strayhorn, Dexter Gordon, Thelonious Monk, Billy Holiday. Ha suonato con tutti, no, potremmo non finire. Poi ha continuato a lavorare fino a agli ultimi anni di vita, con la sua tromba, il suo filicorno, la sua umanità e la sua incredibile simpatia. E fra gli incontri importanti, musicalmente parlando, ce n'è uno entusiasmante, quello con il pianista Oscar Peterson, e io vi voglio proporre proprio da un disco al quale sono molto affezionato, intitolato The More I See You, una composizione del sassofonista Johnny Hodges, che era poi uno dei solisti dell'orchestra di Duke Ellington. Pensate, Oscar Peterson, Benny Carter al sax contralto, Ray Brown al contrabbasso, Lorne Lofsky alla chitarra, Lewis Nash alla batteria e naturalmente Clark Terry, tromba e filicorno. Il brano si intitola Squeddy Rue, Clark Terry al soundcheck con Oscar Peterson. We'll be right back. Soundcheck, il suono della musica. Sì, un bellissimo ricordo anche per me. Ho avuto l'onore di avvicinare Clark Terry, di lavorare con lui in studio di registrazione, partecipando a una a una session insieme al maestro John Hendrix e al mio amico Ben Sidran, che mi diede l'opportunità di lavorare per la sua etichetta, la Go Jazz Records, e realizzare quindi con due giganti del jazz come Clark Terry e John Hendrix una versione contemporanea di Mumbles, uno stile vocale portato al successo da Clark Terry, ma ormai negli anni 50, quando Clark Terry entrò a far parte di un'orchestra molto presente in televisione in quel periodo, con la quale si cimentava non solo con i suoi strumenti ma anche come vocalist e abile improvvisatore skat. Sì, la Tonight Show Band nella National Broadcasting Company, erano gli anni di piena anche segregazione razziale, fu il primo musicista afroamericano ad entrare in questa band in televisione in prima serata. Eh sì, il primo musicista nero a lavorare in televisione per la NBC. Beh, sì, una cosa molto importante. Un rivoluzionario anche per questo. Ed è stato un rivoluzionario Clark Terry anche musicalmente. Era considerato uno dei musicisti contemporanei, cioè quelli che erano rivolti al futuro e all'evoluzione della musica. Infatti l'abbiamo già detto, Miles Davis e Quincy Jones andavano a lezioni dal formidabile Clark Terry, un innovatore in campo musicale, celebrato per il suo virtuosismo tecnico, naturalmente un senso ritmico impeccabile, ma anche un buon gusto, una grande classe sul palco e dietro i suoi strumenti. E quindi, combinando queste doti con una presenza scenica d'attore, Clark Terry era considerato proprio un cantastorie nel jazz, che riusciva ad affascinare gli spettatori raccontando delle storie musicali palpitanti, coinvolgenti e ricche di suspense. E queste sono note che troverete anche su Wikipedia, per dire. C'è un artista che viene celebrato alla pari di un presidente degli Stati Uniti. Era, in un certo senso, era il presidente degli Stati Uniti del jazz. Forse sì, mio caro Francesco. Allora, andiamo ad ascoltare una delle ultime, forse l'ultima registrazione realizzata da Clark Terry, che viene coinvolto in studio di registrazione da Terry Lynn Carrington, batterista della nuova generazione, alla quale venne l'idea di rendere il tributo a un album di Duke Ellington intitolato Money Jungle, quindi una versione contemporanea di Money Jungle, con Gerald Clayton al pianoforte e Christian McBride al contrabbasso. E Clark Terry viene coinvolto in questa operazione, che poi ha vinto il Grammy Award come miglior disco di jazz della passata stagione, in questo brano di Duke Ellington intitolato Florette Africaine. Hai qualche dato da aggiungere? Clark Terry in questo caso aveva già 93 anni, 92. Sì, è praticamente un anno prima della sua scomparsa. Quindi grandissimo, fino all'ultimo è riuscito praticamente a registrare. Sì, apprezzerete quindi Clark Terry con il suono della sua voce e quelle pochissime note che riusciva ancora a soffiare attraverso la sua tromba. Soundcheck, il suono della musica. Thank you. un'altra idea geniale e innovativa da parte di Clark Terry, quella di realizzare un album nel 1959 intitolato Top and Bottom, ovvero i due registri, quello acuto della sua tromba e del suo filicorno e quello più grave invece della tuba suonata da Don Butterfield, specialista di questo strumento, incontrando il pianista Jimmy Jones, il bassista Sam Jones e Art Taylor alla batteria. 1959 e anche il fatto di dare come titolo a questa composizione, che ha iniziato con una specie di marcetta militare, come titolo Milly Terry, quindi la crasi proprio fra il cognome di Clark Terry e Milly Terry. Allora, Clark Terry, protagonista del nostro soundcheck, il doveroso tributo a un eroe del jazz che si sta per concludere. Però prima di salutarci con questa versione magistrale di Clark Terry di Georgia on My Mind, il successo di Yogi Carmichael cantato da Ray Charles a tutti gli altri, direi di ricordare anche alcuni premi e riconoscimenti ricevuti in carriera da Clark Terry. Francesco, sì, ha ricevuto un Grammy Award e due Grammy Certificates, oltre a 3 nomination per i Grammy. Ha ottenuto anche 15 dottorati onorari. È stato ambasciatore del jazz per il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America nel Medio Oriente e anche in Africa. È stato insignito anche in Francia del titolo di Ordre des Arts et des Lettres, uno dei massimi riconoscimenti per la cultura in certo, Francia. Per un artista, certo. Nel 1996 è stato anche introdotto nella St. Louis Walk of Fame e nel 2005 è stato eletto trombettista dell'anno dal Jazz Journalist Association, ma soprattutto anche i libri, il suo ruolo da educatore. Vero, libri stato importanti, perché ha scritto dei metodi proprio per i trombettisti importanti come Let's Talk Trumpet Interpretation e anche il metodo con il quale spiega il sistema di respirazione circolare. Sì, adesso non voglio essere tecnico, però praticamente la respirazione circolare permette a un musicista di poter suonare una nota o più note senza prendere mai fiato, cioè senza mai fermarsi. Sì, anche per aver ben presente il suo ruolo da educatore potrete anche guardare il documentario che si chiama Keep On Keeping On. Ah, bellissimo, vero. In cui lui si vede appunto lui già malandato sulla sedia a rotelle, con già in dialisi per il diabete, che insegna a questo musicista diventato cieco, questo pianista diventato cieco, Justin Coughlin, appunto gli insegna tutta la sua esperienza, tutto quello che lui sa sul jazz, e poi questo pianista inizia a diventare una stella nascente nel mondo e del allora jazz. Viva Clark Terry, viva il jazz, noi ci risentiamo il prossimo weekend. A tutti voi buona serata, buona settimana e buona musica da Giorgio Telesforo, Francesco Tromba e Clark Terry con Georgia on My Mind. Viva Clark Terry, sempre.